tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del calendario del notiziario anticlericale. Oggi parliamo di 8 per 1000, Vaticano, fanatismo religioso bavarese, Cardinal Ratzinger e Papa Ratzinger, omicidi clericali a Brescia e ad Arezzo, censure clericali, testamento di Garibaldi, poesie anticlericali, calendario anticlericale, eccetera. Partiamo dall'8 per 1000. Allora, esiste in Italia una Costituzione che l'articolo 3 prevede: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali, eccetera, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione. Quindi, allora, se il governo istituisce l'8 per 1000, deve darlo a tutte le religioni e anche a noi atei omologhi delle religioni. E invece niente, musulmani, testimoni di Geova e noi atei siamo esclusi dall'8 per 1000 con gravissimi danni economici. Voi pensate che i valdesi, che sono quattro gatti, prendono più di 20 milioni di euro l'anno. Passiamo al Vaticano, città del Vaticano. 22 anni fa il colonnello 43enne Alois Estermann, svizzero-tedesco, da poche ore nominato comandante delle guardie svizzere, e sua moglie la colombiana Gladys Romero di 48 anni, assassinati da un altro appartenente al Vaticano, un vice caporale, che poi si sarebbe suicidato. La strage sollevò dubbi mai chiariti, tanto che recentemente la madre di Tornea ha chiesto la riapertura delle indagini. Sempre rimanendo alle guardie svizzere, che sono un po' cattivelle, ne combino sempre una per colore, nel marzo 1878, da Storia Illustrata, rivolta degli svizzeri in Vaticano. Guardie svizzere rientrate con ore di ritardo dalla libera uscita. Rifiutano gli arresti. Ammutinamento. Scontro feroce con i gendarmi svizzeri. Alla fine compromesso storico e gli svizzeri non vengono arrestati. Però se le sono date di santa ragione con i gendarmi. Fanatismo religioso bavarese, che è una specie di, insomma, di provincia di Verona in Germania, no? Da cronaca vera del 19 maggio. E questa povera ragazza di 23 anni fu seviziata dai frati esorcisti per decine di volte. Ecco, sul giornale abbiamo le terribili immagini di sua madre, che è proprio una faccia da bigotta cattolica fanatica, che strangola la figlia che sarebbe posseduta dal demonio, fino a farla morire. Seguì processo e condanna dei frati esorcisti. Ma passiamo ad Arezzo. Ad Arezzo padre Graziano uscirà di cella e potrà anche celebrare la messa. È ancora prete. Occhio, che tra poco padre Graziano esce di cella, state attenti soprattutto voi donne, eccetera. Elena uccisa in chiesa mentre pregava per la nonna malata. Il suo corpo era nascosto dietro l'altare. A ucciderlo è stato il sacrestano. Occhio ai sacrestani, sono peggio dei preti. Anche questo qui è già uscito, quindi donne siete avvisate, sia il padre, il frate maniaco, sia il sacrestano maniaco sono già usciti, quindi cavoli vostri. 20 maggio, Rai Storia. Segnalo la scomunica, su questo programma storico appunto della Rai, del film La dolce vita di Fellini. E addirittura, proprio lo dice la Rai, l'Osservatore Romano di quel giorno lì titolò Basta, cioè non se ne poteva più di questi film cosiddetti sconci. Ma passiamo al testamento di Garibaldi. Ai miei figli, ai miei amici, a quanti dividono le mie opinioni, io leggo l'amore per la libertà, il mio odio per la menzogna e la tirannide clericale. Siccome negli ultimi momenti la creatura umana, il prete, approfittando, eccetera, di farti confessare, comunicare e carpire il testamento, io rifiuto tutti questi doveri presunti del cattolico. In conseguenza, io Giuseppe Garibaldi dichiaro che trovandomi in piena ragione non voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso, disprezzevole e scellerato del prete. Poesie anticlericali. Non esiste Gesù. Non esiste Gesù, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Passiamo al gergo anticlericale ateo. Ateismo indeterministico. Forma di ateismo che della scienza si alimenta e non può che essere pluralistico ed evoluzionistico. Ateismo socio-economico marxiano. forma di ateismo molto politicizzato che spesso indulge a cedimenti e compromessi con il Vaticano, vedi l'articolo 7 del concordato, e le finanziamenti alle scuole private e altri disastri combinati dal vecchio PC. 24 maggio 2013, funerali clerico-fascisti all'Imbiate, Monza Brianza, di un ex deputato missino, tutto messe e salesiani. 25 maggio 2016, arrestata suora in Kenya per ostacolo alla campagna per le vaccinazioni anti-rosolia e anti-morbillo. 26 maggio 2017, scandalo in sacrestia a Caserta, un chierichetto anziano abusava sessualmente di quelli più piccoli. Occhio ai chierichetti, sacrestani, preti, frati, chierichetti, sono tutti pericolosissimi. 27 maggio 2017, scandalo istituto Provolo in Italia e Argentina, nuove indagini, dimostrata una teoria infinita di abusi sessuali sui piccoli sordomuti. 28 maggio 2017, il Vaticano conquista la RAI, 1000 ore di fiction su santi e papi, lo denuncia Critica Liberale. 29 maggio 2015, il Vescovo di Verona invita a votare per i clerico razzisti, tutto rosari, tutte messe della Lega Nord. 30 maggio 1325, l'esercito papale sconfitto presso Osimo in provincia di Ancona dalle truppe delle città di Fermo e Fabriano. 31 maggio 1550, ingiunzione papale al duca di Ferrara, procedere rapidamente al rogo degli eretici clericali. Accadde nel maggio 1950, assolta dal tribunale di Napoli Giovanna Berneri, denunciata da bigotti clericali per aver propagandato metodi contraccettivi. Bene, saluti a tutti i compagni e gli amici di Radio Wombat, alla prossima puntata, saluti.